Luzione 10, c'è qualcuno? Attenzione, Cristina Lavena! Attento, Cicino l'indiano! Avanti, avanti! Attenzione, belle prime! Attenzione, copiate Antonio, cazzo! Copiate Antonio, barra voce, brecco, brecco, calcolo sui nomi! Dice che passa i calci sui nomi! Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambi? Chi è? Chi è? Sono in barra mobile, sono cazzo! Anch'io sono in barra mobile, tu! Che sei? Vicino al quadrato! Sono andato in banca, là! Sono lì a Serra Secca! Sono andato anch'io! E cosa direbbe? Sei in macchina! Via! Mi lascio un po' in macchina! Hai fatto bene, Antu! Così almeno quando sei libero te ne vai a girare, coso, e parli. Ma poi arrivo al quadrato, arrivo lì, e penso il tempo di fare tutto. Cosa, Antu? Questo si si può andare a fare tutto. Ehi, dai, secondo dove passo, Antu? Perché non ti sento fortissimo, dove sei? Qui no, che qua sta al quadrato. Chi cazzo? Allora fai prima, devo accompagnare Marco a casa sua e poi magari usciamo, là. E io procediamo. Attenzione, accuditi! Attenzione, bombolino, bomboletta. Via, mi sa tritta la braghetta. Ah, tu fai la brava, ma col bambino sì. Vabbè, il tredicesimo della gomocoppa. Ho detto col bambino sì. Beh, sblatterendi, mica ti ho visto me. E dove sì? Già ti ho visto già, sto facendo il piazzale, tutto quanto. Sì, magari se resti lì poi salgo, accompagno Marco. Ehi, adesso mi sto accompagnando una persona. Ah, vabbè, allora non usarci come voi. Va bene, io sa cazzo qui sono i pinguini e occhi. Io adesso accompagno Marco e poi sono libero. Va bene. Gabagava, cos'è, persona femmina o maschio? Cugino, Ah, tuo cugino, pensavo che avessi buscato. Già sto cercando una bucacciona. E si sente che c'ha fare cinese un gas, modulazione di frequenza, roba seria. Già si sente. E a me come mi ascolti, bombolino? Una bomba, sì, ok. Io sto parlando col microfono sulla gamba. Io mezzo alle gambe. Antonio, il microfono va bene. Sì. Amplificato? No, è normale, roba seria. Lascia la manico il baraccolo. Tutto che punge, una lemme piccolina, l'antenna, quella che ho io. Quale antenna hai messo, Antu? Chissà che va via mappa una volta, chissà minoretta. Ma con la magnetica? Via, roba magnetica, cazzo. Attacco, accendi sigari, uscire. Cosa? Non andava bene. Tutto volante a me non mi piace, io c'è tutto quanto serio. Se no almeno l'attacco elettrico te lo fai fisso, di modo che poi quando metti l'apparecchio ce l'hai già. Lo facciamo a prova di bomba orologica e occhio. E vabbè, comunque sei al quadrato adesso. Non è spostato. Kappa. E vabbè, comunque già stai arrivando bene, dai. Kappa. Ho 5 watt omologati, senza lineare. Sono lineare, ma attacchi a 10 sigari, poi è lineare, ma che tutto. Se io metti un coso da 20 aperte al resistore. Da 30 aperte, è grosso già pieno. Attenzione, attenzione, accogliete. Da parte mia, Ponte Nuovo, a tu. Rientrando per faccio a casa. A casa tua stai andando? Tanto fermati nella strada nuova che c'è venendo, sto venendo dove, a casa, quella strada che porta al monte, fermati lì con lo spiazzo che c'è, poi vengo lì. Macchina 1, macchina 2, dove siete? Ma robot di nuovo, purtroppo. E io sono in via Succi, siamo vicini. Devo accompagnare Marco, dai. Salutalo già. Ciao. Ciao. Ciao. Andiamo fuori controllo. Antonio si è fatto lo spinetto. Antonio, ma spacciatore ci ha fatto. Sì, come manco io. No, lo so, sto scherzando. Già hai vinto pure, avano B più. Ma dai tu cacchi cazzo, a tu mai, già. Cacchi imbriaghera e altre abbigliata. Ecco, quindi qualche una, sì. Ma da oh. Sai che io sono rimasto in grandezza, adesso che sono la abbigliata. Pure io da ragazzo già me ne ho preso, dai, qualcuna, non dico tante, qualche festa, così, sì. Ma va, non mi dubbi. Solo anche diventiamo un po' più stravaganti, capito? A te male di pigliare? Dipende come gira. No, a me mi prendeva allegria a casa, mettevo allegria a tutti, facevo ridere a tutti. No, il problema è che facevo anche ridere, ma c'erano due problemi, cioè. E la gente era provocata. Vabbè, se uno provoca, non è normale che ti giri, non è che, non è perché c'è tutto. Così è. Ti è sannato? Sono qua fermo al monte adesso. Ci accompagno Marco e poi salgo, dove sei? Poi sono fermo al monte. È la strada nuova, ti hai capito dopo? Mi te già now! Come se riprendo il movimento? Vado là, in alto, giusto? Sono arrivato a casa di Marco, dai, adesso veniamo! Ma che funzioni, è vero? Cosa Antonio? Trazione! Attenzione Antonio! Avanti! Beh, come sta va? Sì, sono. Sotto casa dove sei tu e sto per venire, sto venendo su strada, insomma, dai. Sono qua, mi sono fermato nella piazza di sotto. Quale? Quella su in alto dove posso andare, quella dove, dopo la rotatoria. Sì. Sono lì adesso, com'è? Bene, si sente perfettamente, però la funzione è sta cosa. Lo sai che per l'avamo per passata, guardi. Che apparecchio è? No, l'apparecchio è quello piccolino, quello in Island. Quello che avevi preso a fusata? Sì, quello piccolino, senza vista, senza niente. Minorito, minorito. E io ci sento. E funziona, appunto. Se lì li metti un microfono amplificato. Cioè, sono gli spagnoli, si intende. Attento in Spagna! Non è entrato nessuno stasera. Ma lo vedi che ti diverti dalla macchina, se niente ti diverti. Già lo so. Gabriele che sto fricato, mamma mia. Vabbè, vittimo. Ce l'hai in macchina? Sì, già, in macchina ce l'ho. Come ti puoi mettere un punto alto e prende bene? Sì, io perché non ti voglio fare di exam. Nello spazio, adesso io ti passo davanti e poi torno indietro dalla rotatoria. Come la fai scorreggiare la radio? Cosa? Scorreggiare la radio. Ah? Lo sai che secondo me non ci sono stazionarie. Basta misurarle. Dove minacci qua? A vedere se ci sono. Dove? Sì, dove minacci? Dove minacci? Non so dove me ne ha, perché me ne accorgo che è a posto la testa. Perché non scalda. Andati per un'altra parte. Aiuto. Già ti ho visto già. Non riesci. Oh, Santu! Ti ho visto! Anche te ti ho visto! Anche te ti ho visto! Attenzione, la vita! Non vedessi un inoghi! Su, racconta! Che fa casino qua! Siamo immobile, attendi! Attenzione, attenzione! Barra mobile, che fammi sentite! Attenzione, scoppiate tutto dalla barra mobile! Che bello tutto! Eccomi! Che ti sta, lo fai da prendere. Ehi, dai, che sbaglio l'ho toccato. Anto. Avanti. Avevo toccato per sbaglio, sicuramente alzando il volume ho toccato qualcosa dall'effetto. Non è entrato nessuno? Quanto pare no. Ehi, se non entra nessuno, barò il piglio a freddo e me ne torno a casa. Tanto. Dopo entro da casa, così guardo quella situazione malefica. Ammazza, non so che cosa è. Va me come mi ascolti, Gambio? Attenzione, Antonio, Gambio! Una bomba! Ti biasi, Cava di Gallo. Almeno rimettessero tutte le macchine in funzione. Ci divertivamo così tanto un periodo, ci trovavamo a quadrato, noi. Pure un gaggio avevo mangiato con Claudio e cosa, abbiamo mangiato formaggio con i vermi, vino. Si può organizzare, già si può organizzare. E ma prima eravamo in tanti, capito? Ci trovavamo tutti a quadrato. Era diverso. Che ore ci sono fatte? È quasi le stesse. Che pagava? Che tardi? Che pagava? Oh, la cosa non ha più il positivo che va. Ora. Cambio basso. Sono alle luci gialle, sono. Ehi, mi ascolti sempre bene? Sembra una bomba, non so come mi ascolti tu. Sembra bene. Però non è di ferma questa cosa. Dalle una pulita col CRC e l'ala d'acciaio, lo pulisci bene lo stile. Prendi l'ala d'acciaio, li butti un po' di CRC sopra e lo grano. E vedrai che ti toglie, se c'è stazionare te le toglie, perché a me, quando devo stazionare con la Turbo 2001, li pulivo lo stilo e scendevano di brutto. Secondo me questa è una bomba, non sa niente di stazionare, è una buonissima antenna. Che antenna hai a tu? Una LEM piccolina. Ah, è la LEM. Ma non è quella... quella che avevo io, quella piccola, non mi pare che sia quella. Io ne avevo un'altra LEM, che era tipo la Turbo 2001, però più piccola. Non lo so quella che ne ha fatto. In questi anni le antenne sono sempre quelle dell'autovettura. Ne avevi anche una con la base verde, te la ricordi? Antu, quella grande con la base verde, quella che la piegavi non si spezzava, la piegavi quasi in due. Sì, ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. E pure Isa, da voi ti vedi per due. No, ma mi interessa, se funziona questa va bene questa. C'è una cosa piccolina. Ma quella lì in lontananza magari ti dà problemi, capito? Invece con quella che c'aveva quella persona, quella si piega in due e tutto quanto lo si dronca. Ed esce bene. Bombe alta, guarda, ce l'ho ancora io, guardate, oggi è magazzino. E con la base magnetica quella. Devi mettere. No, dico, quella con la base magnetica. Si può mettere nella base magnetica. Ah, lui ce l'aveva fissa. Sì. Perché si possa mettere, già lo so. Io invece mi avevo preso la Turbo 2001 direttamente, quando lui ce l'ha preso quella, te lo ricordi? Quello che se l'ha comprata è la mia Turbo 2001, il primo che se l'ha presa era quella tipo vecchio, quella che pompava ancora di più di quelle di adesso. Tu pensa che con quella lì, Antu, arrivavo da sotto casa con lo stesso segnale della Mantova. Tu ci sei? Stavo parcheggiando. Sì, me lo ricordo. Che vagano, entrano sempre, adesso stasera non entra di nessuno, ah c'è la bisogno di luce, vabbè tanto dai, se stai scaricando la macchina e coso, ti saluto e ci sentiamo da casa magari. Sono fermo sotto casa io, funziona, che vuoi che ti dica, funziona. No, io ti sento bene, qua ti sento bene. Vabbè. Vabbè, ha già pigliato un PL puro trattato me. Non vuol dire, interessante che lo pulisci bene, io quando sono usati li pulisco bene e vanno bene lo stesso. Sono migliori di quelli che vanno. Ma tu lo sai una cosa, ho messo quelli di Fusaro, adesso avvitano, non capisco come mai. Quelli a macchinista? No, quelli nuovi che non avvitavano, ti ricordi che avevo preso. Ho fatto gli spezzoni, sono andato a vitale e non avvitavano. Adesso avvitano, non capisco. Forse a furia di avvitare e svitare gli altri, adesso ci hanno fatto il passo e avvitano. Allora, io devo cambiare il formato. Ok, dai, sto scendo. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao Anto, dai, sentiamo, adesso io vado sotto casa e vedo un po', dai. Vedo un po' che fare. Ma l'aspettavo che funzionasse così bene. Ok, ciao. Ciao Anto, ciao. Attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10. Beh, Ciccio, butta giù la pasta. Ciccio, butta giù la pasta. Ciccio, butta giù la pasta, bocca. Pippo. Hola. Chi è? Avanti. Chi è? Avanti. Attento, Ciccio, passeggio. Chi è che fa casino qua? Ui, bombolino. E ancora era in giro in macchina. E cosa eri bene in macchina? E giri lì? Col barracco, vero? Cazzo, ma la macchina di buco? È una magnetica. Andavè. Ma già va bene la magnetica. Attenzione, gappa. Se non mi riuscirò a buone baracchino, ma non ne vale più la pena. No, c'era già ne poco fa. Ma scusa, fammi dire una mentalità proprio barbara, guarda. Ma se tu questo nessuno non lo crei, come fa a esserci qualcuno? Non c'è più amore nella frequenza d'Antonio, non c'è più amore, ormai è proprio morta la frequenza. Che l'hanno fatta morire gente che... magari tentando di rimettersi un po' in su ci può... come si dice? Si può riprendere. Ascolta a me, ti volevo chiedere altro, quanto stai pagando tu di assicurazione annuale? Vabbè, la moto non c'è col motore. L'ultima che ho pagato 127. Per la macchina 200 e qualcosa. Annuale? No, ogni 6 mesi. 200 e qualcosa. Ascolta, mandami il numero su WhatsApp che provo a contattarli domani. Facci direttamente. No, il numero che chiamo, che così gli mando il mio libretto per quanto mi prendono a me. Perché a me mi scadava l'altro mese. Ehi, mi ha detto facci perché molte volte non ti rispondono perché sono pieni, capito? Quanto paghi tu di assicurazione ogni 6 mesi? 600 euro, è ammontata a burro. Cosa? 600 euro, infatti per quello che la voglio guardare se trovo qualcosa di meno. Con chi sei? Con quelli della AIA Aliposi. Mandati da cagare. Tu mandami il numero, Anto, fammi questo favore. E la via con l'indirizzo mi mandi, così domani ci faccio una scappata. Allora lui si chiama Antonello Dini. Si chiama via Guarnelli, lo sai dove? Ce l'hai tu, annuale. via Guarnerio, lo sai dov'è? No, via Guarnerio. Allora, praticamente via Forlanini, via Umana deve girare, come sa lì via Umana te la trovi proprio ad angolo. Sì, ma che sicurazione è? Che compagnia è? Loro hanno varie compagnie, si chiama, lui si chiama Antonello Tizzi, si chiama. E vabbè, tu dammi il numero che prova a chiamare. Ma che lo cerco? C'è scritto. E mi scrivi la via e il numero civico, così, ma se in caso riesco domani ci passo. Aspetta un attimino, eh. Ma scrivi la compagnia pure della cosa, dell'assicurazione, scrivi pure. Ok, persone. Altu, bomboli. Aspetta che sono a telefono. Sì, guarda che te l'ho mandato, scrivimi tutto quello che della compagnia. Emanuele. Signore Emanuele, ce l'ho io. Stavo chiamando Emanuele perché mi sto mandando questa roba al coso, alla... ecco qua. Ma l'ha mandato quella storia che ti ho chiesto? Stavo chiamando. No, mandamelo per via WhatsApp con i passaggi. E praticamente avevo il telefono in carica, io non c'ero a casa, stavo caricando il telefono, per quello non l'ho sentito la chiamata. Ho capito. Se no prendo un foglio e me lo faccio io. E mi chiami adesso e facciamo tutto. Sto mandando questa cosa a Manuele e ti sto in contatto subito, ok? Vabbè, quando sei pronto me lo dico. Avanti, chi vuole entrare? Ehi, Antu, mandato l'hai! Sì che te l'ho mandato, però non me lo fa andare, porca miseria. Ma te lo fa, cazzo non ti va a scrivi? Ti ho mandato il messaggio sul tuo coso, proprio per scrivermelo qua. Ok, ci siamo. Scrivilo lì, adesso l'ho letto, scrivilo lì. Ciao già. Ciao Manuel. Beh, tutto a posto. Tutto a posto, niente inutile. Andrà peggio meglio usci. Vabbè, dai, poi canti a posto. Quello lì a posto, però. E tu, Manuel? Lavorando sta? No, dovrei iniziare da settimana prossima perché stavo aspettando questi appalti qui che li davano il via. Adesso mi dovrebbe chiamare settimana prossima. Vediamo un po'. Prima c'è da parlare di tutto e poi si inizia. Un colloquio e poi si inizia. Che contratto fa e soprattutto i cash. Guardia armata. Per adesso ho sempre portierato, però sta iniziando anche come guardia armata. Ma è nuovo qui? No, c'è... Cioè, sì, dai, insomma, nuovo, un annetto c'è. Cioè. Vabbè, dai. Si guarda dove conviene. No, fai così a letto, sì, ore 40, poi sono 6:80, dai, a ora. Ti già un po' di più. Fai 6:40 lavorativo, il cazzo che dava 2 giorni, 16 giorni, e la cifra era 1.200, se facevi sempre quelle 12-13 ore, anzi forse qualche cosa di più facevo. Poi notturni, di magari fai manco notturni così. Sì, notturno lo fai perché non siamo portierati, siamo guardie fiduciarie, lo puoi fare notturno. Ah, ma ti pagano come portierato così? No, ti pagano come guardia giurata, guardia giurata prende 1.200, se vuoi più. Ma poi te l'hanno riconosciuta a Continente, che cosa le... diciamo il decreto. No, di quello ancora non ho sentito, quella era un'altra vigilanza, non ho sentito niente, non mi hanno fatto sapere nulla, si era meglio in luce. No, sto facendo un decreto per avere la pistola. Sì, io rinnovo il decreto, no, non si è fatto sentire. No, ma intanto lo faccio lo faccio da zero e basta, tanto è la matta si grossa, non c'è barucca. Vabbè, ma tu va bene, magari non devi fare più documentazioni e cose. No, la documentazione la devi fare da capo. E magari dà più fiducia, se tu l'hai già avuto dà più fiducia. Sì, quello sì. Non sai com'è, la documentazione la devi fare da capo, tanto mi ha bucato in asso sempre, non lo sai quant'è. E se no quanti passi la guadagna? Aspetta un attimo, mi ha sentito un secondo già. Vai, Antonio. C'è qualcuno su 10? Quanta gente voi? Tu gente sì, buonasera. Guarda che video, ma ci riesci a capirmelo. Via, adesso qua. Ah, Antonio. Ciao. Allora, mi avvio un attimino andando da mio figlio, ragazzo, che ne comprende a Caduna. Ci sentiamo proprio tra un po'. Ehi, Antu, Antu! Mica ti ho mandato tutto, mi devi aprire. Ok, ho visto, grazie. Adesso domani già mi informo, dai. Domani mi informo e ve lo po'. Comunque, a quel prezzo che stai pagando tu, cazzo, non paghi tanto, eh. 2,40 mi pare. Sì, mesi. Bisogna vedere annuale quanto ti fanno pagare. Mi senti? Sì, ho detto 6 mesi, 2,40 ed è buono. Annuale sarà intorno alle, cosa ti posso dire, 480, 500. Sarà così. Sarà. E adesso domani chiama per vedere se si dà bidare in culo, perché mi pare un po' con carica. Bisogna stare attenti, me. Ah? Bisogna stare attenti con questi cazzo di mammalucchi. No, già è grande come azienda, non è un'azienda nuova, c'è da parecchio. Però è cara. Poi! Ehi, Manuel, buonasera. Dipende dalla cilindrata della macchina che c'hai. No, la cilindrata mia è 1000, quella di Antonio è 1100, anzi forse 1200 o 1100. Faccio 1500 euro e pago 450 euro. Va bene, guarda l'anzianità, sotto. Quello già lo so. 1200. Vedi, paga poco, 1200, cazzo la mia è un 1000. È così. No, sul 1500 sto pagando 450 euro all'anno. Oh, ogni 6 mesi mi viene 2,25. Bisogna vedere quanti kilowatt c'ha pure la macchina, perché adesso la cilindrata è relativa. Beh, andrà già 13 kilowatt. Con le macchine che sono 1000, cazzo, che hanno il doppio dei kilowatt mi ha detto. Bisogna vedere quanto è di chilo, ma non su per giù, una Yaris cosa sarà, non è che cammina di meno della mia, no? Cioè, è quanto è la mia più o meno, cioè, vabbè la mia è un caso patologico, la mia cammina un bel, cioè se la tiri e la lanci cammina tanto. È un motore vecchio a scuola pure. Io quella macchina non ti sto dicendo palle, ti porto un testimone, ti porto, l'ho tirata oltre più di 160, l'ho tirata quasi a 170, l'ho tirata quella macchina. Ti posso dire che per essere un 1200 è una bestia. E che c'avevo io? La girata a 180, la girata a Nandaurbia. Che cosa c'avevi tu? E prima c'avevo i cascai, 1600. Dico, ma per essere un 1200 è una ripresa, che è una cosa fenomenale. Fenomenale, guarda. Per essere un 1200 piccolino, eh. Infatti, per essere un 1200 piccolino, andavessi... Io adesso c'ho un Renault 1500 che quando la devi cammina un bel cammina. La verità, per essere un motorino piccolino ha una bella ripresa, magari beve un pochettino, ma beve un pochettino è la verità, però. Che bel fu, sarei truccata. La faccio un rossetto, la faccio. La faccio di bici, bel fu, sarei consumare di... essere in visita. Se non mai invece non camminano. Come la tipica macchina? Ma tu cosa ne buccio? Un rossetto? No, no, la mia è già piombata da un mezzo mio. Andiamo. E che cazzo di devo pure? E a tanto chi anda? Ma chi c'è che anda tutta la bella? Dai, dai, andiamo, andiamo, bubu. E deve essere la città, mi stanno confabulando. E allora, attore, cosa mi racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Bugie? No, o cos'altro? Oh, le bugie devi dire. Io sono per sapere, signore. E voi? Andiamo voi. Che pensare la vendeva ira? Ha già fatto, finendo di piovere e scende con un gagno. Io ho portato, perché se no per voler non può scendere, allora l'ho portato all'ora di pranzo e poi... Porto verso le 8 meno un quarto, dai. Perché? Avanti. Buonasera, un'anima dalla collinetta, mi serve per controllo di Sierra Romeo, per cortesia, con la buonasera ancora, avanti cambio. Ciao Uranio, ben sentito. Il segnale per te 8:30, radio 4, dai. Ok. Perfetto, ancora buonasera a tutti. Allora, non so chi sia l'altro amico, boh, dove si sembri doppio rum, così è. Cappa, un po' citofonica la radio. Citofonica, Citofonica, perché non va bene? Prova a lontanare di più il microfono, forse sei troppo vicino. Adesso sono a circa una trentina di centimetri, vediamo un po' come adesso, le prova. Cappa, Uranio, mi senti? Sì, ti ho troppo nuda. Avvicinati ancora un pochino. Ok, adesso com'è? 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Così sei perfetto, guarda, così va bene. E tante volte è come ti avvicino al microfono che ti fa la radio brutta, capito? Ma così è perfetto. La sento benissimo io, eh. Perché sto usando potenza qua, Sto provando una vecchia Volpe di vecchia data. Pare che stia funzionando bene, ok, perfetto, sono contento, dai. Benissimo, benissimo, tu doppio rum qua arrivi benissimo, è un 5, c'hai, il segnale l'ho guardato, ma riprendi. Guarda che segnale. Picchi positivo a 9:10, c'è. Cappa, un danno, mi senti anche a me? Sono liscio, comunque va. Uranio? Sì, dimmi, avanti. Cappa, sono Antonio, mi senti pure a me? Sì, sto qui, sta arrivando circa un segnale di 6 con picchi a 9, pare, dai. Cappa, già va bene, dai. Anzi, sbagliato io, 7 con picchi a 9. E vabbè, con questo apparecchio qua non è che posso regolarmi, diciamo, decentemente, perché lo smettere digitale a barre, quindi non è che sia dei migliori, dai, una mezza cagatina, ma tanto per avere un'idea. Ok, dai, a voi, il cambio. C'è anche Tore, avanti, e poi c'è anche Manuel. Buonasera Uranio, bene l'ascolti, sì? Sì, anche tu qua arrivi un segnale di 7 con picchi a 9, dai. Sì, ok, va bene così, si prende te la già. C'è Emanuele, sì sì. Sto controllando le melanzane al forno. Di dove è Uranio? Cusilo. Buonasera a tutti, mi sentite che non sono comportabile? Bottaggi da torre, buonasera a tutti, comportabile sono, ciao! Ciao! Da dove? Jugoslavia! Vabbè, arrivi bene, c'è la bomba! Vicino alla cantonata, sì! Tu dove, amico? Vicino alla cantonata! Cos'è cantonata? Allora! Allora! Fuffi! Ammazza che mi rinvaria! Ciao Lu! Buonasera a tutti! Ciao Lu! Oggi ho provato la canzone tua! Mi piace! Quale? Amore gentile! Hai capito? sì, ma Luca anche sa cantare meglio. Faccio battimento, non lo so. Luca la canta già da parecchio, io l'ho provata oggi. Lasciamo il tempo, perché devi imparare bene. L'ho provata stasera. Già, ora vedevo un po', forse perché era in USB la lì. Senti meglio? Ehi, tu mi senti? Sì, sì, volevo sentire un amico di Ogilo se mi ascolta. Ogilo, mi senti? Ma non mi sento. Urario! Sarà sparito, boh. Oh, ci deve essere ritirato. E beh, Sofia! E me, Musi! Soia! Vabbè, dai, ci sono un po' di passaggi, rimango in stand-by, già sono qua in ascolto, che devo fare una cosettina, voce. Luca! Ehi, dimmi a tu. Ci sono riuscito. Sei riuscito a che cosa? A mettere la D-block. Ah, bravo, bravo, andava, dai. Arrivo subito, sono qua in ascolto. Ah, mi racconto cosa mi è successo. Mi è arrivato un messaggio. Praticamente questa ditta che mi diceva urgentemente di chiamare perché avevo una comunicazione da darmi, ho chiamato, mi ha risposto questo call center, ma è così, le passo alla mia collega. Aspetta, non rispondeva nessuno, mi ha rifugiato tutto un grito. Allora ho chiamato la team, ma sai che l'ho recuperato in me che non si dica, la team me l'ha subito rimborsata. Che figlio di doppia gentaglia, cazzo, schifose. Ma la team mi hanno detto, se lei legge i numeri 800 va bene, se ci sono 86, 84 non risponda mai, perché sono truffe. Professore, lo so. Ma io sapevo che da lavoro mi dovevano dare dei soldi, quindi ho pensato che fosse quello, capito? Gentaglia, gentaglia, per carità, non bisogna mai fidarsi, io mi dai in corto per niente, ma proprio in corto mi, per carità. Tanto io non mi sono fidato, sono andato su Google e ho cercato il nome di questa ditta e cosa trattava. E mi ha risposto che praticamente si impegnava per pratiche di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato che fosse quello, capito? Poi mi stanno chiamando. Ciao bastardo, dimmi la di Trugotto. Se hai più sino a 20 euro te li rimborsa la team, dopo i 20 euro non te li rimborsa più. Hai capito? Sarei mai fottito da te. Ma è cercato di fottirmi, ma non ho bisogno di soldi. Perché li ho bloccati, io. Sono rimasti bloccati, vedi. E mi hanno dovuto rimborsare. Quasi 30 euro mi hanno dovuto rimborsare, infatti mi ha già ciappato me lo conto i 30 euro. A me me l'hanno scritto direttamente sul telefono, praticamente che erano stati restituiti i soldi che mi avevano truffato. No, a me hanno cercato di truffarmi, ma io li ho bloccati e mi hanno richiamato dicendo che loro non rimborsavano, io ho detto guardi se non rimborsano subito, se io se fra un'ora non ho le 30 euro nel conto passavo subito alla magistratura. Comandante di Russia, dopo un'ora va via le 30 euro nel conto. Ah, ma stessi a quelli che te l'hanno truffato? Stavano cercando di truffarmi, perché nel telefono io ho sino a un certo coso, certo numero, e si blocca la chiamata, allora ti devono rimborsare, ecco cos'è, non devono manco più chiamarmi, poi il numero non risultava giusto, loro stavano già facendo con un altro numero, stavano lavorando. Si sono incazzati, che fate, questa altra ditta, la consente. Oh, yeah. parla di queste truffe, quella che fanno gli anziani, gli dicono che l'importo ha avuto un incidente, che gli servono soldi, oro per pagare le cure, eccetera. Ha una vicino a me, a questa qua, al telefono gli hanno fatto il coso. E io per tramite i carabinieri, ho chiamato i carabinieri, sono venuti. E è venuto questa qua con questa ragazza. Dice, documenti gli hanno chiesto subito i carabinieri, questi qua, e l'hanno arrestati. Sono usciti in giornale pure, anche da ambasciata. Ah, una ragazza o un ragazzo era? Una ragazza era, no? A questa signora anziana mi ha chiesto il favore, e ho preso, ho chiamato i carabinieri, sono venuti, sì signora. Aspetti che... No, tu dici, mi guardi, c'è cioè, qua... Io non so nulla, sì, ma di oggi ti hanno mandato i documenti, l'hanno arrestato. Fa truffa. E ma poi il giorno dopo li liberano di nuovo, le fanno altre. E quello che, no, che facevano su internet, che ti facevano mandare i soldi per acquisti di apparecchi, radio, eccetera. A me li avevano rubato 200 euro, no? Un pochino. No, un rubato di volte mi ha bruciato. 26 euro mi ha bruciato. Allora, dopo un poco io nel coso ho visto il sito dove erano e gliel'ho bloccato. E sotto gli ho messo, sono truffatori. Allora, dopo un poco ha ciambato, dora la gira, ha ciambato. E gli stasera ha giunto torna truffatori. Allora, io ho bloccato tutta la team e ho chiesto di bloccarmi tutte le chiamate al di fuori delle normali. Tutte bloccate, insomma, non può entrare nessuno oltre le chiamate normali. Quelli della truffa non possono più entrare. Ma io la team non c'ho, su internet c'ho coso, c'ho Sky Wi-Fi, che me lo devono mettere la fibra, mi devono mettere tra poco. Guarda ciò, ma i dubbi, ma futura niente. Di tutti i colori ne soffendi, infatti a me come vedo il numero del coso consente con un altro numero si blocca subito. Ma io mi sono informato, oppure chiamato a Google e gli ho chiesto questa ditta che cosa trattava, e hanno scritto che trattava roba di lavoro, roba amministrativa, di lavoro, eccetera, eccetera. Magari è la volta buona che metto la ricicina che mi ha ributtito della liquidazione, una parte, perché la mia ditta me l'ha pagata, quella ditta che le hanno messo dopo si riso fa futtire. No, dice così, io no, già non ha già avuto, solo un amico che si vuole rivolto e basta, ma è buttito, e infatti non mi sono venuto più di queste cose. A parte a chi tocca, a Manuele, Antonio. Manuele deve lasciare andare a mangiarsi le melanzane. Melanzane in forno. No, io mi ho fatto oggi una pasta asciutta abbondante, al basilico, e ho fatto con l'arrosto, con le patate, e ho fatto qualche pezzo in più, e dove ci me lo mangio stasera non mi devo fare nulla, mi ricado via. No, io a mezzogiorno mi ho mangiato il capo del fiori con le olive, mi ho mangiato. A suffugati. Sì, a suffugati. Se era un bel che non li mangiavo. E quindi si ha sbattisci. Io l'altro giorno l'avevo fatto bollito con sale, con l'acqua. E poi è salata, è buono, si scende tutto. In bianco? In bianco sì. Poi l'ho fatta insalata. L'ho fatta insalata con l'olio d'aceto. E buono. La settimana scorsa l'ho mangiata così. L'ho fatta la settimana scorsa. E io l'ho trovato che era un'offerta, e adesso con il video. Era un'offerta e ne ho preso due. Ma se si scende chi ne aprea. No, a me me l'ha dato due piante, mia figlia me l'ha dato. Ah, maduri, faccio mia pianta, è vedo madura. Ma lo va? No, l'ho regalata a mio genero, l'ho regalata. Una cassetta veniva, me l'ha dato due maduri, me l'ha dato. loro ce ce l'ho fatta ieri, come pigliura. Vabbè, dai, magari erano di qualche contadino, c'è ancora più corso. Cosa lo zio gliel'ha dati, sta da campagna. Maduri irani. Ma io li sto aspettando adesso, prima non ne mangiavo, cavolo, lo sai. Ma io li ho sempre mangiati. Che, quando ho fatto il lavoro giù a Ragrucca, c'ho la piantagione mi vazia io, mi vazia. Lui delle piante le regava a casa. No, io, diciamo, quelli a Fuglia sì, perché mamma faceva... Cavolfiorino le mangiavo. Poi gli assufugati mi sono piaciuti e li ho mangiati. Poi li ho fatti anche insalate, erano buone, quindi ho continuato a prendere. Io non ho fatto gli avvivo a mangiare questa cosa. Almeno lo stomaco si pulisce un po'. Campagna. Sì, fanno bene, le verdure fanno bene. Specialmente in bianco fanno benissimo. A me piace anche la zea, mi piace il buis, il bietto, sono buonissime. L'altro giorno ce l'hanno offerta quella, la cicuria, ce l'è presente. Eppure non è tanta amara, io me la ricordavo più amara. Sì, perché c'è quella amara e quella dolce. Cioè, tu magari hai mangiato quella dolce. Probabile, perché non la sentivo così amara. Io mi ricordo che papà la mangiava, però era amara. Beh, me l'aveva dato un giorno a assaggiare, mi faceva schifo, non la mangiavo volentieri. Ma ci visto quassù un coso di zea, un coso in mezzo all'erba, infatti me devo ricordare a portarmi un coltello, fa un bel domazzo, è madura buru. Hola, hola! Ciao! Che hola, eh? Gianni, tu sei? No! Chi è? Qualche cinesino. Hola, hola! La voce è cinesina? Che? Ma hai tagliato forse cinesina che ero io là qua! Tu vedi? E allora presentati, chi sei? Chi è là? L'altra, la mia compagna, ti ha fatto lo scherzo. Ma scalzona! Già, mi ha sentito un attimino. Facciamo la niente. E io l'ho preso per cinesina. Io pensavo non ci fosse nessuno qua. E quindi lui si è messo a parlare e pensavo che non ci fosse nessuno. No. Ma è stata la prova, detto, non c'è nessuno, qua io sono finito a te, fate tanti anni. Però non so neanche chi ci sia, tutto a tutti comunque. Ehi Adane, ci sono Torre Squalo, io. Qui c'era... c'è... ma come si chiama? Emanuele, Antonio. Però sono scomparsi, Emanuele mi pare che ci sia ancora. Guardate, ma Emanuele non c'è più. Riprendi otto. Ehi dai, vi saluto, sono qua in ascolto, sto facendo roba. Sentiamo dopo. Ehi, ciao. Te ne ho mandato un altro di video, te l'ho specificato. Ehi, grazie. Io ho il commutatore, devi dare sempre conto che io ho il commutatore. Capito già? È la stessa cosa. Oh, io come l'ho collegato, come me l'hanno dato, ma c'era un po' di anni me, ma ha dato una persona, sempre funzionando, non mi ha dato mai un problema. Hai capito? Quello principale dove va? Cioè, a ultimo ti devi uscire con l'antenna dallo strumento, capito? Allora praticamente te lo spiego, quell'uno che c'è, quello fa tutto, capito? Fa tutto. E allora non c'è nessuno, tutti addormentati siete nel divano o bevendo borracce di acqua e più verde. Brecco, attenzione, qua Stampida, il nostro Rasinara. Professa, sì, professa. Adesso, Stampì, ma vado ad entrare in bar. Allora, ma io ho fatto un sushu, anche se ho cominciato a taglio e... Beh, niente, faccio buoni nemici. Due frutte ci ho fatte. Merde, non si tratta mai il signor. Cosa mangio tanto, signore? Tocca a mangiare a me un tonno con i bugoni e due etti di mucadella. Ma guarda, sta pulendo il bambino, si è cagato. Ah, c'è la vita. Vai, Sampi, non so se ci sei rimasto il cuore anche tu. Ore, Vittorio Sarrato. Chi c'è? Chi è rimasto? Manuele? Come più riesciuto? Vabbè, riprendi tu Gianni, poi se voleva entrare bussa. Bene, bene, bene, bene, ciao a tu. Salutami a Rubizzino. Chi si diventa come si dice, un radioamatore diventami. Tieni pure un microfono sempre. Vero già. Io sono un terrorista. Io sono un terrorista. E lì mi dovido, e tu. A grande mano, vedi a Filippi. Già sono così vedi però. Ne sono belli sì. Sono belle sì, ma bisogna avere molta pazienza con i bambini. Eia, quello già è vero. E poi come si può Antonio e venivo due usci di pazienza. Tiri la panza in terra, quasi casino, una pareva. È un terrorista, ti sto dicendo. Un piccolo Billy Boys di, come ti dici, dei Bronx. Antonio, che a tu cresci si rubano in busciacca. E a rubarci a farli ieri, a vedere un po', da voi compare gelato di cicchetta e ui, per caso di Bidarendi a tutto fulgato. E già ne ha di giocattoli lì a casa sua, è pieno di giocattoli, ma distrugge tutto. E allora ne ci dà lo vapo. E anche altri che faccia tutto. No, per modo di dire, no, nel senso, quando dice così, mi metto il vapo e mi... Ah, no. Vedi, già cresce, te l'ho detto, già cresce, poi già si cade. E allora, quella è la faccia d'età adesso, come stanno a scoprire, a vedere, a curiosi, a curiosi tutti in terra, a vedere se fa il stucco, se non fa il stucco. E allora, sì, è così. Adesso è l'età che scoprono, gli piace scoprire, piace vedere le cose, buttarle in terra, saltare sui divani. Io avevo un amico che c'era quel figlio quando era piccolo, che se era una molla, io mi spaventavo, quando veniva a casa mi spaventavo. Mi lampava tutto, brincava l'altro al divano, il padre non si chirriava, niente da là. Una molla era, ti girava da una parte e non c'era più. Allora si guava come ti babbaizzava come ti ciù e poi gli aveva trovato a fare gli amici dove a fare le maracchelle sue. Allora, adesso è posato, se lo vedi è tranquillo, adesso che è grande, aveva pure una fidanzata, ma per niente, quando era piccolo era tremendo. Una volta il padre, io ero con mio figlio e con mia figlia, a casa sua, eravamo lì a trovarlo e gli ha dato una merendina alla mamma. Tu vedi, ragazzi, sembra che viene da una, che verrà le ripizzi di me, e ne ha chiamato una merendina. Ha dato una merendina e miei figli, mio figlio subito, oh, anch'io la voglio. Guarda, ha detto, dagli ne metà, non gliene do, dagli ne metà, brutto asino, asino sei tu, l'ha detto l'uomo. Poi, io te lo avevo subito appigliato, dove era un capo di corrente, in casa mia te l'ho a capo di corrente, ne ho portato dalle mani, io non mangio a picco. Su Mari, aveva avuto una cintura, aveva avuto la parte della Bibbia, me l'aveva avuta, e sa un dono di sei capo. E vabbè, ma lo sai che i bambini quando sono piccoli sono di così, e poi quanti mi pare che fa 3 anni o 3 anni e mezzo lo figlio di Antonio, quindi nel bel mezzo di sta curiosendo, investigando. fa differenza che cosa nella fuorinterra, magari è più buona Rivini, Rubissi Nito, compreso. E qua, no, le cose come altro. E sta su tutta la gira e marrazzene da Più si incassa Antonio e più lui ci gode, capito? Più li piace, chi vede che fate incazzare una bella. Ma sono così quando sono minoretti, sono così. Lui si intende un pappagallino, si intende gli antenni. Come ti si chiama? Ernesto. Non è lui Ernesto, io ho Romeo, Marley e Giulietta. Ne hai tre già? Sì, tre. E devi nascere, ogni tanto mi guardo quella ragazza siciliana che c'ha quel cenerino grigio con la coda rossa, i calzi. Ma c'ha le mani, innocente sono io, ne dici un po' così cose, a voi dici, ma poi sto faiolo, da fumi la sigaretta, so chi so, si imparano a fare da sotto, ma a fare senza rete avevo. Sì, lo guardo anch'io per lui. Dice, avvocato, innocente sono. Poi dice, bacino. E quello lì, no, getto, da cui dici, papà è uscito? Da cui si fai delle gurugane, gli dici, vai a bere, da cui dici, cos'è che gli dici? In siciliano di panturru, da buone, di poco, dico, c'è un vocabolario di su pappagallo che è fuori da un mare. Aro. Aro 4. Cioè, lo so, io li seguo tutti, mi piacciono questi video, li seguo. Quello lì è il pappagallo che parla di più. Anche i miei parlano, ma stasera per dire stavo fischiando veramente, la canzone della famiglia Adams, poi ho finito io e ho cominciato a cantarla e mandavo pure il bacio, facendo... Sono curioso, poi ho visto, lo sai che sta pigliando dei pappagalli? Quella tipa, non lo so se è di un Moriso, chissà mattone, chissà verme a urocchiare, chissà se ha disegni come sta tutti prima. Adesso c'ha due o tre pappagallini. E niente, ogni tanto fare dirette, però...